poi ho girato perché non rispondo a nessuno. Dai, le pizzate me la sono mangiata, adesso sono tranquillo. Sì, amico, ti sei fermato a pigliarti la bicicletta. Guarda, ci stavo... Guarda, Gianni sicuramente si è fermato a pigliarci la pizza. Ma la Peugeot ci va Stati Uniti. Ha avuto che c'è la butibuti là che con la bambina ci ha fatto male lui, la bambina, e qui non aveva la circolazione. Non incosciente, grazie. Da Busano aveva voluto. Come si fa a scegliere la circolazione? Ma stiamo scherzando. È una cosa che non va bene. Quando la mia stessa circolazione giravo dentro il cortile per farla girare un po', poi la rimettevo a posto. E quando poi gli ho fatto la circolazione per usarla, là. Ma mi pare che gli ho fatto male a farla così vista, la circolazione sempre prendeva. La notte la facevo sempre alla seconda settimana, la prima settimana di giugno. E infatti scadeva sempre da giugno a... poi faceva giugno-settembre, una cosa del genere. Io l'ho fatta per tutto l'anno. Sì, ce l'avevo tutta la notte io. Detti maxi sì, però del 250 no, del 250 ce l'avevo semestrale. Ah, come viene tu per tutto l'anno? Pago 210 euro tutto l'anno, non va più che a me. Con la Smart vai. E pago 212 euro con la Smart tutto l'anno. Tenerla non è così, quando fai tagliandi sono 150 euro, 200 euro di pezzo. Ehi già, quindi altre macchine, ma della Smart, ogni volta che entro la Mercedes, tu immaginati che un chilo d'olio della Smart costa 26 euro al litro questo. E caro tu riposo, no? Il cattor. Quello è un olio buono, è normale. Ma no, io rimetto 102.000 la mia, e va benissimo. Ma io non se ne posso mettere. Lì c'è l'olio, quello lì è buono. Perché è un olio che praticamente fa tutto. Capito? È automatica quella, quindi è un olio che entra in circolazione anche nel cambio automatico. Quindi deve essere un olio molto sintetico, è un 515 mi pare, è un olio particolare, che tra l'altro lo vendono solo la Mercedes, se te lo guardi in bagaglio. Poi sembra, poi ne funziona come se fosse un due tempi, si conferma, c'è qualcuno sotto che sta chiamando e cerca di entrare? La 600 sì, quella che c'ho io sì, c'è la 700 sì, non lo vedi, quello di Varia no, quello di Varia è 1000, c'ha l'olio normale come la macchina normale. Hanno tutta rimodernata, tariffata. Il vecchio modello invece consuma più olio che benzina, ma normale, perché c'è un recircolo d'olio su tutto, capito? E quindi non sento niente, io ho QRM a 9 e non sento niente, o c'è una pioggia qua, c'è un fruscio allucinante, non sento niente. Chi è che ti ha chiamato? Senti tu. Che stava chiamando e comunque si conferma, pare un due tempi, ce la va chiara, se non stai a tempo lo proprio si bruciano i motori così, perché consuma olio ogni pochi migliaia di chilometri, deve aggiungere l'olio, non cambiarlo, aggiungerlo. Ciao Gianni, avanti chi stava chiamando. Frank. Avanti chi stava chiamando, canale 10. Va a chiamare tu Frank. Non c'è sempre niente, c'è quello che mi hanno che ti ho detto. Cosa chiamo? Mi sta chiamando, io non sento, c'è quello che mi hanno proprio allucinante, c'è questo fruscio dell'acqua, con questi tralicci di alta tensione qua, il problema è sempre quello. Sì, ma è così, è così. Infatti io ho sempre un litro d'olio in macchina. Sempre l'ho avuto, no? Non ho mai avuto problemi. Lo controllo ogni 2000-3000 km, lo controllo, se da aggiungere lo aggiungo e basta. No, quella varia è completamente diversa. Quelle 1000, no? Non ha bisogno più di fare il motore normale come la macchina normale. È tutta un abisso. Quando mi giunse era mia, sembra che sia seduto una ciclina o la mia rispetto a quella. Molto più avanti. Allora che si dice Claude? quell'aria, quell'aria è molto normale ai chilometri che devo fare, poi se lo rifare il motore lo rifare. Il 600 era così, il primo modello, la prima serie, la mia è la seconda serie, la mia è la seconda serie, la mia è 700, turbo, turbo benzina, automatica turbo benzina, quello che arriva è 1000, capito? Hanno fatto, quello che arriva è 4 cilindri, la mia è ancora 3 cilindri. Poi, ti stavo dicendo, io a Milano, esattamente 10 anni fa, ho lavorato al centro assistenza della, della Smart, quando ancora non, qua non c'erano neanche le officine e dovevi, per fare il tagliando, imbarcarla a Porto Torres e spedirla a Genova. Venivano, te la prendevano e ti facevano il tagliando. Conosco tutti i difetti che avevano inizialmente, tu immaginati che avevano fatto male il buco del tergicristallo dell'1.8 termico di dietro e ogni tante chiusure si staccava il vetro di dietro, l'1.8. Poi l'altra cosa era che non c'era il, come si dice, la ruota di scorta, quindi c'è il kit di gonfiaggio, sai quante persone dovevi andare a soccorrere perché gli era rimasta la macchina con la ruota scarciata e non potevano, non serviva il kit di riparazione. E tutto per una macchina che allora costava, adesso non mi ricordo se la Pulse o la Pure, costava 18 milioni, 18 milioni. Io non ho cambiato niente, 14.000 euro costa adesso, quello che è costata 14.250 euro, quindi alla fine se fa la proporzione, se fa la proporzione tu non è, non, non è cambiato assolutamente niente. La mia è 6 marce, perché 700 quella è 5 marce, automatica sequenziale, ed è un 1000 turbo benzina, ma vanno molto bene, vanno molto bene, non consumano, camminano che è un treno. Bisogna stare molto attenti, bisogna stare attenti, bisogna fare la manutenzione, bisogna controllare sempre tutto, perché altrimenti è un casino. No, 50.000 km il motore lo prende e lo butta nel cesso perché è talmente spinto, perché sembra di andare su un go-kart poi alla fine, che lo metti sotto stress. È un ottimo motore, attenzione, ottima macchina, c'è la famosa cellula Trinitron che ti mette nella condizione antischiacciamento ed è credo tutta in alluminio, adesso non so esattamente come sia. La carrozzeria è completamente plastica. E, tra l'altro in bagno di colore, nel senso che se tu vai a graffiarlo il colore non viene via perché il bagno di plastica è completo, cioè è fatta proprio col colore della plastica che poi vedi alla fine in ultima analisi. No, tecnologicamente è un gioiellino, però obiettivamente è una macchina che, cioè con quel prezzo lì, se vai e ti prendi una Dacia che sta vendendo adesso, non mi ricordo la Citroen, mi sembra. C'è una signora macchina, Gliel'ho vista, facendo un bel po' di strada, ha fatto la Dacia. Ho fatto un bel po' di strada, c'era un mio referente, un mio responsabile. Vanno molto bene. E altro sono scelte, io l'avevo provata e mi è piaciuta. E avevo preso due modelli, un 800 e un 700. E poi l'aria se l'ho presa nuova. Guarda, io l'ho vista, perché l'aria ha tamponato una Opel Corsa, che ha fatto 6.000 euro di danno, e lì si è rotto la mascherina, davanti è un faro. Ho detto, ma è mai possibile che hai tamponato una macchina, l'hai distrutta, e questo giocattolo non ci ha fatto niente. Quando sono andato al carrozziere, l'ho vista smontata davanti, la foto della Roberto, c'è la lastra d'acciaio davanti, capito? Come la Formula 1, praticamente il telaio fatto, ho rivestito tutto in acciaio e poi c'è una lastra d'acciaio davanti, ecco perché non ci ha fatto niente. Che è una macchina secondo me sovraspinta perché ha dei tempi di accelerazione da 0 a 100 e micidiali. Sembra di stare davvero su un go-kart, se tu pigi di colpo l'acceleratore è devastante in accelerazione. E già lo so, io mi rimetto per quello, soprattutto col cambio automatico, e vabbè, e già lui va, purtroppo. La Mercedes sta facendo un pacco di soldi con questa macchinetta, veramente. cosa, non si è sentito nessun altro? No, negativo. Ho sentito fammi che tu sei a trovarmi con l'uomo mio. E boh, mi ha detto che sarebbe entrato più tardi, che devo fare alcune cosette, tu sai. Sarebbe entrato più tardi. E niente, io mi ero qua, ho fatto alcuni spostamenti, alcune cose, messo un po' a posto i baracchinetti, le radio, ho eliminato alcune cosette che non mi servivano. Messo un po' a posto, e dove è andato? Dove è andato? E anche voglia di uscire, ma niente, voglio andare a fare un giretto per fare segni e rientrare a casa. Ma come vuoi uscire a questo tempo? Assolutamente, Michele, sta bene per tutto. Assolutamente. Ti ripeto, adesso non so, adesso guardo la televisione un attimo, aspetta. Buonasera. Ciao, Domenico Tardonetto, buonasera, ben ascoltato, con la speranza che mi ascolti, con questa pioggia. Che ti ascoltiamo sempre, buonasera a lei, buonasera al Rode. Mi pare che ho sentito anche Gianni Doppio Rom, sottofondo era il telefono. Gianni è andato a Papai, è andato a Mangiai. No, oh, Papai, è un bello da bella, un furbo me ce l'hai. E io se io lavoro per Cagliari, quindi mi ricordo a quell'ora, oh, hai già Papai. E questa è la chiamo. Non sento io, no, non sento, non sento. Cazzo, c'è uno, va. Santiago non vede me, chiedi a vedere chi è, ma io non lo sento, c'ho QRM a Santiago 9, dritto, Santiago 9. Ti ha parato Claudio? E cosa cambio? Tutti così sono, sono tornato anch'io, è peggio. La KF, nonostante sia attenuato tutto il rumore, ma c'è un fruscio di acqua allucinante. Sono ben alto io, Domè. Poi c'è il valice l'alta tensione dell'impianto dell'Enel qua, della cosa della centrale dell'Enel, in via vanno abbasso, ogni volta che piove il sistema è sempre quello. Torre! E Mariedu! E buonasera! Ben ascoltato! Beh, babbo, dove stai andando? Sì, rientra adesso sbarcato alle 7 a Olbia, adesso scarico qua al mercato a Sassari. Grazie. no, è proprio, ce n'è uno di giampa giusti giusti, non vorrei che si saldara. Era positivo. Vabbè, ma lascia quello, già di una frutti. Tanto per l'uso che ne fai, conosci il continente, basta che agganci i tuoi colleghi di lavoro, giusto per tenerti in contatto, tutti di resto. Ci avrai sicuramente poco tempo da giocare. Ah, beh, quello sì. Basta che cazzo vanno già i quei siciliani di Napolino, esci, cazzo di spaccano. Delle foto e del filmato di funzionamento, fino adesso sono in questo momento con 440, ho approfittato per scaldarlo un pochettino. Ma qua Sassari o fuori Sassari? Il tizio? E avete non lo vai qua Sassari, te l'hanno chiesto, fuori Sassari? No, fuori, in continente. In continente. Mi ha chiesto la cortesia di fare l'upload delle foto e volevo vedere un pochettino. Allora ho collegato la radio al computer anche per fargli vedere la connessione con il cavo e vedere il dialogo del funzionamento dei chip on board, eccetera eccetera. Un po' di scarrellate nell'HF e ho compattato il tutto, ora glielo sto inviando. Vabbè, speriamo a fare registrato il break. E opla, io faccio un discorso proprio di spazio. Ho trovato il posto in questo momento per poter mettere l'FT e per il K non c'ho posto, quindi lo do. Un minimo di ingombro di un palmo l'ho dedicato al baracchino, al Lincoln, ma è più discreto, piccolo, quindi ci sta. In caso di emergenza o di utilizzo in condizioni atmosferiche non ottimali. No, senza alcun rimorso, andiamo avanti il break. Buonasera, Salvatore con Claudio. Buonasera Claudio, buonasera Salvatore. Cappuccetto Massino, ti sento, Salvatore. Buonasera a tutti. Ciao Bombolo, ben sentito. Siamo in compagnia di Claudio. Claudio. Sì, mi sembra che ha detto che ti ascolta a basso, come mai? Ciao, buonasera, ben sentito. Grazie a te, Claudio. Lo sento un po', tu anni più forte qua, allora lo sento un pochino più basso. No, non so che cosa stia usando. Non lo so, mi stava a toccare. Hai sentito Bombolo, che ti sente basso, come mai? Che vuoi che ti dica? Non dusci, sto andando con l'HF in questo momento, con l'antenna, con la verticale, che quando piove devo ancora fargli il buco per fargli sgrondare tutta l'acqua all'interno, e ho notato che anche non lo faccio, avrò sempre le stazionarie un po' altine. E comunque niente, Anto, non so, sto uscendo proprio con il minimo sindacabile in termini di watt, quindi l'importante è che mi senta. Riprendi? No, non ho problemi a sentirti, però mi sono accorto che il segnale è più basso, non ho nessun problema, però rispetto a Claudio che è un bel forte, tu sei più basso. Sei 9, ma meno di 9, solito mi arrivi 9,25, quanto Claudio 9,25 mi arrivi, e sei più basso, cioè si vede proprio la differenza. Allora già non mi sono sbagliato, cioè ti sto collegato bene. Fa cappa, poi Claudio è imbattibile, vero Pla? Imbattibile, la questione di essere imbattibile è... Anche io ho drone, da quando ho tutti questi metri di cavo, ho drone che purtroppo a volte ho delle difficoltà, però già arrivo lo stesso, più basso ma già arrivo lo stesso. Poi io sono con una trentina di watt, non di più, una trentina di watt, e stazionare sono 1,1. No, io molto meno. Giusto il minimo per poter pilotare l'accordatore da falo. Sto usando, devo arrivare almeno a modularli, modulati sono, arrivo a 20 modulati, se no sono sotto 10. Però mi interessava riuscire a pilotare giusto l'accordatore da palo, e allora quindi di meno non posso andare. Bene signori, ok, upload finito, accidenti, ho fatto un file con dei filmati dentro, 57 mega, ci ha messo mezz'ora per fare l'upload, vaffantoma, speriamo che serva qualcosa. Vabbè, speriamo. Dai signori, io stavo chiudendo già l'avvocato che ero in questione con Mario. Dopo vent'anni che non da tanto non sentivo, perdonatemi ma devo attaccare perché è pronta la cena, se no non ne buco bene, sono tutta la sera rinchiusa qua, ancora sto pulendo, facendo, sono in fase di trasferimento e quindi devo staccarmi. Ci sentiamo dopo, se ci si file. Ma a me stai dicendo, a tu? No, Claudio, hai il tuo trasferimento. Sì, sì, mi sto trasferendo su alla... nell'attico, a tu. Non come casa, è come, come stazione, capito? Devo trasferire tutto. E quindi sto smontando piano piano, mettendo a parte, facendo... Ci sentiamo di sicuro, che adesso devo attaccare, devo fare la prova con l'FT per vedere se l'abilitazione dei filtri del filtro Collins funziona, perché dovrebbe avere in dotazione anche il Collins, questa qua. Sì, c'è il filtro, come quello lì, come il 950, sì. È attivo. E infatti, siccome ieri stavo lavorando in garage e ho guardato la scatola, nella scatola, siccome c'era adesivo Collins on board, che mettono, mi spiegava anche Massimiliano, proprio per indicare la serie con il filtro Collins in dotazione, e detto cavolo, allora questo ce l'ha. E ieri notte poi quando sono rientrato ho dato una sbirciata al menu interno e non avevo abilitato nulla, però non ho potuto fare la prova. Oggi ho letto la mail di questo che era interessato, quindi fino a questo momento mi sono dedicato per fare filmati e filmatini. Ora spengo il K e vedo un pochettino se sull'FT la configurazione ha dato i suoi risultati e il Collins funziona. Tra 5 minuti sposto il cavo dell'antenna e faccio la prova. Lo so, controllo bene tutto, attivalo e vedrai che cambia anche moltissimo il sistema. Dai signori, vi saluto che è già pronto, ciao a tutti, quello che tengo per me, a dopo se ci siete, altrimenti fate la buona, ciao. No, grazie, sentiamo. Fai a dopo, ciao. Antonio, riprendi che io nel frattempo faccio gli spostamenti. Spostamenti? Sì, adesso devo spegnere questo di apparato, spostare l'antenna e accendere l'altra radio, quindi mi servono almeno 5 minuti. Ah, non c'è nessun problema, poi vedo come arrivi. Ora, Cani, 10 anni doppio rum. Mangiato! Sto uscendo con questa specie di tregoggio, di baracchino, che a me fa pasta per dire che fa schifo. Baracchino, sì. Quello che stavo usando prima, però perché l'altro, non so se cosa è successo ieri. No. Breve, stavo per entrare in radio, però stavo saldando lo spinotto, avevo tolto la campana, morale, suona il telefono, mollo il mic, e si torce il cavo e va in trasmissione, perché era aperta la campana, capito? Va in trasmissione, meno male, non è andato, cioè è andato solo importante, e non è andato in trasmissione di modulazione. Beh, è rimasta la porta tesita per quanto tempo? Da 6 minuti, tipo a un certo punto sono arrivato qua, sono ritornato indietro e ho visto che c'era la portante, io ho pensato guarda, che sarà il classico imbecille che sta mettendo la portante, però ho visto che era a fondo scala, ho detto ma chi è a fondo scala? Cerco di spostarmi di canale e non funzionava, perché è un classico, no? Quando schiacci la portante non puoi spostare il canale. Ho capito che era torto, allora ho girato, che era torto il cavo, l'ho rigirato e scende la portante, speriamo che non mi abbiano sentito, nel senso che non abbiano sentito niente di casa. Passo al 20 e stavano frastimando, dice il solito persona che mette la portante, quindi sono entrato, ho chiesto scusa, però avevo il terrore che mi avessero sentito, capito? Sì, vabbè. E lo so, succede. Ce ne sono sentite delle belle con la storia del microfono, che li dimenticava aperti. No, ma di solito sai queste cose che capitano col lock del PTT, se c'hai tipo l'MC60 che schiacci e vai in trasmissione. Però non mi era mai capitato, ho capito. Poi mi si è torto come l'ho lasciato andare e quindi è entrato in trasmissione. Cioè non è entrato in trasmissione, ma è importante, meno male, basta, mi sono scusato. No. E sono cose che succedono, se non lo fa apposta. Magari ti mandava, ovviamente va la macchina sotto e dice, amico, devi mettere la porta. Riuscivano comunque a passarmi perché era una portante però muta, capito? Quindi tra di loro si sono andati cose e sono passati al 20. Cappagappa, vabbè, ma se il segnale è forte che cosa è muta non ce la fai. E vabbè, sono cose che succedono. E beh, in effetti questa parte però non è giusta. No, poi ho rimandato la cosa perché ho un paio di saldature da fare bene. Perché non era solamente il coso, era anche lo squelch che subentra, non so per quale motivo, deve avere lo slide che è un po' ossidato, ci devo mettere un po' di quella spray. Che microfono è? Non il microfono, il baracchino, un MB45. Ah, no, pensavo che era lo slider del microfono, pensavo che fosse il coso, là, quello della Intec. Ma perché quello lì ha una carbonella che si consuma. Infatti sicuramente è successo quello, oppure si è ossidata leggermente, capito? Esattamente, mi hanno detto che si può sostituire con la mina della matita, basta passargli quello e fa la stessa funzione. Su, la grafite. La grafite, sì. Infatti è proprio di grafite. Vabbè, la mina, la chiamavano la mina, non lo so se la chiamano grafite. È di grafite, ma la chiamavano mina. Da lì veniva, infatti, a una mina. E chi se ne imbriaghina. Vabbè, Antonio, non si è più saputo nulla di questa storia della cena, no? Niente. No, non è certo invogliante il tempo, capito? Queste cose sono le classiche voglie che vengono quando c'è bel tempo e quando la puoi programmare, finché è così, da un giorno all'altro ne scende di tutto. Beh, vabbè, almeno per vedere chi era d'accordo, chi non era d'accordo. C'è sempre tempo. Se non c'è gente che aderisce basta andare in 4 e si fa una cena tra due, cosa? Intanto mi pare che qua poca voglia ce n'è di fare qualche cosa di buono. Vabbè, questo era scontato che che facesse, come si dice, anche in pochi, se non vengono. Ma tu chi siete due? Quello con come si dice, con i capelli argentati, o quello che c'è a fianco in questa foto che c'hai su Facebook? Che buon osso, che foto stai guardando? La iatta, la iattuina. Ah, Titti! Ebbè, non si ricorda, beh, io sono un micio. E ti stavo dicendo, no, per esempio, come hanno detto sì quasi tutti quelli che ho interpellato. Guarda, ho smesso di pregare la gente, anzi, mi innaffutto dritto per la mia strada, pochi ma buoni. Infatti. Ah, io non sbagliavo prima, anzi, ti ripeto, non sbagliavo. Quando ero, ti parlo di 20 anni fa e cosa, io dalla radio non uscivo, cioè la radio era una cosa, la vita prima era un'altra. Io ho trovato delle persone squisite anche in radio, è un po' difficile, però aspetta, però quelle poche che ci sono, ne vale la pena anche frequentarle al di fuori della radio, assolutamente. Ma poi ti ripeto, io sono sempre dell'idea che se fine a se stessa, per scambiare quattro chiacchiere può anche andare bene. Però se si riesce fattivamente a fare qualcosa di positivo, si evita innanzitutto di ostiare, di inventarsi problemi, per quanto c'è sempre qualcuno che li tira fuori, e quindi sono queste persone che vanno un attimino messe ai margini per evitare che facciano da slegante, perché queste persone fanno da slegante, fanno sì che non ne fanno e non lasciano fare, si chiama come il cane del verduraio, capito? Che non ne mangia di verdura e non lascia mangiare agli altri. Sono andato a pescare due volte. Mi è scappata una ratomba grossa, che tu metti di vicino, te lo passo il colpo, no, non mi sembra tanto grossa, invece era di chi si massiccia, l'ho portata sino al molo e mi ha spaccato tutto. Saviroggio, ma l'avevi detto, chi è che ci sta cercando di entrare? Rubiamo di zazzeri. Cos'è, di nuovo la persona non l'ha portata, che cosa non sopporto? Avanti l'amico, se stai cercando di entrare, stai uscendo di portante? Ma ero già portante, se tu mi scendi come dentro un barattolo. Sì, che per metterti in crisi non ci vuole nulla, ui ui. Ma io dico una cosa, se tu vieni qua, io te lo organizzo, per caso mi arriva un apparecchio, te lo regalo, però lo devi usare. E tu ogni volta che ti sento non entro, perché minchia cazzo, è dentro un barattolo, un microfono che si deve, te lo do io. Da piuttosto che farmi regalare cosa da te o portare cosa, saldare da te, la schiaccio col martello. Provo a attaccare il barattino, però mi c'è un apparecchio, sarà selettivo, ma non ti sento. Ma qua lo senti tu, Gianni? Io non ho detto la prova del polemico, ma la modulazione hai ragione tu, è un po' barattolosa. Devi essere polemico perché ti affatica l'ascolto, ti affatica, devi essere polemico perché c'è la radio da farla funzionare come si deve. Non c'è qualcuno, ma che chiaro, io c'ho il cuore remo, non sento niente, qua mi arriva il cuore remo come 10, quindi non sento niente. Domenico, che ti ha scambiato per Claudio, avanti Domenico. Aspetta, dov'è però? Domenico, non è Claudio, è Fabrizio. Domenico, rincoglionito, che sei? Io lo sento, Santiago 910, 920 di coso, cioè di QRM, forse anche tu, Claudio, lo senti, No, non ci voglio parlare, ma rotti coglioni. Che cosa? Ma lo stai sentendo? Che cosa? È Domenico. Ma cosa Domenico? È finita, ecco il buon orto. Attenzione Domenico, aspetta un attimino, attenzione Domenico. Deve essere il monorma. Lesco. Non ci voglio parlare. Cambia l'antenna. Lo so sentire anch'io. Ma parlaci tu, io non lo sento. Parlaci tu. Ho detto, adesso l'ho sentito anch'io, ho capito che non è Domenico. Ah, ora lo sentire anche io, ho capito. Ciao Fabri, buonasera. Ciao anche Gianni. No, io ho QRM alto, capito, quindi no, non sento niente. Ciao Claudio. Sto facendo. Oh Fabri, dimmi. Niente, avevi ragione. Salute 50 e 4,40. Cazzo, l'ho attaccato in 40 metri. Cazzo, tutti 9,30 arrivi. Ma forse che hanno... devo usare meno 6 dB per avere un segnale adeguato. Cazzo, tutti 9,30 già. Sì, però guarda, io ti spiego. Dai che stavo guardando con questo qua, gli segni che con il 830 i segnali sono maggiori, ma non perché è sballato lo Smith, perché è un altro sistema di amplificazione. Cioè, i segnali non è che arrivano tutti uguali, cioè magari con un ricevitore ti becco, forse ho Santiago 9, con l'altro ti becco Santiago 9-10, perché l'altro è più sensibile, l'altro probabilmente riceve meglio. Cioè, quando tu gli fai la taratura dello smitter, come ti dice il manuale service, così, quindi quando tu gli paragoni due ricevitori e l'altro riceve con un segnale maggiore, è perché l'altro è più sensibile, capito? Infatti questi sono più sensibili, mi sa tanto, lo sto notando anch'io quello, e il mio T50 l'ho fatto con lo strumento, quindi l'ho fatto con il generatore e ha sempre segnali sempre più alti. Anche secondo me è così, no, logico, è più preciso. Vabbè, c'è uno in 40 metri, allucinante. 9,50, no, queste sassere sicuramente ci avrà. Deve essere sassere. Infatti è sassere, va bene. E così, la radio cambia, non c'è niente da fare, dobbiamo ruttere prima. Attenzione, Sassari, si è andato a ascoltare la città del Carraggio con la buonasera. Anzi, città del Carraggio, buonasera anche a lì. Ciao Gianni, buonasera dalla città del Carraggio, saluto Claudio, se non sbaglio c'era Fabrizio e poi non mi ricordo che ci fosse. Ok, avanti. Quando in quello che ho chiesto smontando sul computer affannato, sto smontando il processore che mi sa tanto, ogni tanto si bloccava di colpo, ma avevo fatto il portatile una volta perché avevo il condotto sporco e mi sa tanto che c'era pasta che non si sta raffreddando il processore, c'è tutta la pasta secca che adesso gliela cambio, meno male che ce l'ho comprato. Sentiamo fra 5 minuti, dai, riprendi. Non ti ascolto, veramente sto facendo un lavoro sul PC e non posso riprendere. Come smetto riprendo. E ce l'ho anch'io con la pasta. Ciao Sandro. Capa, che parola è sua? No, c'è un porta, ci sono vari tipi, servono per condurre, sono questa qua, io ho pagato una barca di soldi in confronto alle altre, è grigia, e ci sono veramente delle differenze, dai di prezzo, tra uno e l'altro, tutto più piccolo, solo un trovo pagato, ma solo infatti vorrei capire chi è veramente esperto, se queste paste qua c'è veramente questa differenza di prezzo tra una e l'altra, la qualità è data dal prezzo oppure solamente lui ci sarà presa per il culo, boh, vorrei capirlo, perché quando avevo pagato una barca di soldi un pubblicino, quanto magari l'altro via 2-3 euro. Non la conosco. Ok, ciao Sandro, buonasera, ben sentito, avanti, Antonio, dove è Sandro? E lo rilancio subito, avanti Sandro. Capo, buonasera, no, pensavo che non mi ascoltavate, comunque buonasera circolare a tutta la ruota. Perché pensavi che non ti ascoltavamo? Sandro. Ehi, Claudio, buonasera. No, ho sentito soltanto un po' Clone che mi ha detto avanti, poi pensavo che Fabrizio non mi ascoltasse, tutto lì. Ti ascolta, sono stato io che ho risposto di fretta a quello che mi ha detto Fabrizio. Arrivi, no, è abbondante, radio super 5, non c'è problema. Ok, voglio capire chi è questo, cazzo, voglio capire chi è Allucinante. Va bene, Gianni, ripeti. Comunque ti ho contattato, sono stato io, mio, non è stato però. Ti ho anche salutato, forse non hai copiato tu perché hai preso subito Fabrizio e vabbè, c'è stata una sovrammodulazione probabilmente, non è successo nulla. E allora Sandro, che te mi contas? Chiappa, via Gianni, no. Già lo so che mi hai registrato al primo impatto, diciamo, e tutto quanto, ma poi ho sentito crote, diciamo così via. Va bene, e cosa ti conto? Niente, sempre il solito, si va, si cammella e direi certo, sempre le solite cose. Niente, sono entrato, ho acceso un attimino perché ero un paio di giorni che non accendevo niente. Quindi ho detto, ma io stavo spazzolando, vi ho ascoltato sul 10, ho detto, ma mi faccio sentire un attimino. Tutto lì, riprendi già. Va bene, dai. Sì che la barca va, lascia andare, ci va quello. No, dai, avanti. Roger, c'è qualcuno che sta facendo un casino sotto, veramente basta, Un attimino di bianco che lo sentiamo. Niente. Allora, sa, tutto bene? Chiappa, Kappa di positivo, sì, tutto ok, Arturo. Tutto Kappa di positivo, ok, tutto procede secondo i programmi, dai, tutto lì. Ok, sono un po' presi in questo periodo, un po'... Troppe ore di tabacco, ma purtroppo bisogna farle, tutto lì. Va bene, Claudio, riprendi. Non c'è il lavoro, bisogna farlo sempre. Quando c'è bisogna farlo. Purtroppo il tempo è quello che è. Anch'io sono stanchissimo questi giorni, poi non se ne parla con questa pioggia. Domani sarà una presa matta all'acqua e quindi comunque bisogna andare, bisogna fare, bisogna produrre, altrimenti non si mangia. E che periodo, me ne è un bel ricorso della mania, un bel. Va bene, Fabrizio è ancora X che sta facendo cose, allora rimetto il microfono a parte Gianni, vai. Comunque è una buona notizia, non pago l'IMU, Ma vedi entra o c'è una libera potenza oggi? Perché non abbiamo sentito mica dire niente. Poi se vuoi entrare per potenza, lo sai, no? Puoi benissimo farlo. Tu non lo paghi l'IMU, figurati se lo pago io, avanti Luca. Metto l'urinari qua, mi ci metto un po' come da... C'è la kilowatt, avessi il passo, No, sono apparentato, sta scherzando. Comunque buonasera a tutti. C'è tu, Claudio, Gianni, se non sbaglio, mi viene il nome adesso. Racconto, Zogu. Porto Torres, Sandro, ecco Sandro, avanti Sandro, riprendi tu. Ciao Luca, ben ascoltato, dai. Ciao Claudio. Indossa bene il casco, Ti ho intravisto in questi giorni lì con le tue coordinate col casco un po' messo di fianco, ok? Alla prossima volta ti do una bella strambazzata, ti passo a fianco e ti do una bella strambazzata, ok? Va bene. E che questo è? Limo, vabbè, buon per lui, diciamo, per chi non paga limo, e chi lo deve pagare lo paghi. Tutto lì, va bene, ok, corde. No, scusa Antonio, ma sei sicuro ero io? Sicuro. Ma guarda, la mano nel fuoco ce la metto al 50%. tipo, capelli, non so, capelli in testa, a me mi stavano anche lo schiappo a testa, meno male che mi ha dato il tempo che lui si girasse, sennò guai, ci fai una figura di merda, scusando il termine, cioè tu renditi conto, ma non me l'abbiamo dato. Guarda Luca, te racconto meglio, Grande con tu ragazza la cavalcata, ma non è tanto grande, un ragazzo di 20 anni, 22 anni, erano tutti in giro, non era tra gli amici. E quindi un gruppo qui, un gruppo, a un certo punto mi hanno questo fatto, e io ero un po' bastardello di Greff, ho detto, mi, sono andato e trovato questo calcio in culo, come potevo andare con Greff, allora si giocava. Certo, si gira e racconta con la ragazza, mi ha guardato, io l'ho guardato, si è girato e se n'è andato. Non occupati che sei spaventato, se non è stato partito la risa. Beh, ti credo, io, ma succedono queste cose comunque, ma succede, oppure vai, salutare, cioè vai convinto che adesso quello è Claudio per dire, no, che sembra uguale là dietro, ma si non è, tu capita, molte volte, però per quello aspetto, finché non vedo in faccia non lo saluto, ma capita, Giulia, ma mi capita anche, mi saluta gente che non conosco, ma ciao Luca, mi dici, ma sì, boh, io anche ti conosco. Se fosse capitato con Luca una cosa del genere, che gli dava un calcio nel culo, l'avresti visto. Si sarebbe girato e ti avrebbe chiesto scusa. Io una volta in Piazza d'Italia, per non far male a una persona, ho continuato a farglielo credere, ma cazzo, questo mi ha confuso per qualche altra persona. Beh, l'ultimo esame l'ho dato, ho dato l'esame, mi è andata bene, questo e quell'altro, vabbè, comunque anche tu, quando non devi dare l'esame, te la prossima volta, perché ancora non ho finito di studiare, eccetera, eccetera. Gli ho fatto credere, mi ha chiamato Antonio, mi ha dato un colpo così, ma una pacca sulle spalle, gli ho fatto credere che ero io, capito, che era quello che pensava lui, perché se ci sarebbe rimasto troppo male, mi ha fatto tutto un discorso, un bel lungo cazzo qua, che non sapevo più dove uscirci. Ciao Fabri, buonanotte. Adesso in macchina non puoi parlare così. No, tanto guarda, non lo sto usando, perché alla fine già lo sai, qui cacca la macchina sempre ferma, con l'altra alla fine qui si è notte, allora tanto lo usando. Oh, scusa già, Fabri, poi ti lascio andare. Dimmi tutto. Ma che c'hai, che c'avevi nella macchina? Se non ti serve ci mettiamo come facciamo un impiantino nella Smart, che è piccolina. Solo che c'è il doppio lamiera, capito, nel fianco, quindi bisogna scogettare qualcosa, magari in garage, facciamo qualche sistema, lo vediamo assieme. Io un giorno scendiamo, ma ce lo scusiamo, tanto quella c'è su, ma come fa un po' quando salirò la smonto dal tavolo, c'è per quel motivo, ma la pugliamo bene, poi muova, la prendi e si può vedere, ma si può organizzare, una cosa fissa, sta fatta bene, non devi toccare, che quando spicci riaccendi la usi, punto. Sì, mettiamo bene la basettina e stacco solo l'antenna, capito? Tu puoi avvitare l'antenna quando la usa, ma metto l'impianto fisso, metto la 48, lo lascio stare fisso, capito? E lo vediamo assieme, perché c'è lo più la mia, è un casino, bisogna che lo vedi tu come si può fare, se non faccio qualche cagata. Dai, ciao, buon lavoro, buon tutto, ci sentiamo alle prossime. E Claude, riprendi e fai girare. Ehi, ciao Fabri, ci sentiamo alle prossime, buon lavoro. Riprendi già. Buonanotte Fabri, buon lavoro, dai, ci sentiamo. K, c'è Sandro, va. Sandro, lo ci ha mollato. K, che dire, quindi proprio ha abbandonato l'impianto Fabri. Secondo me ha fatto male, perché viaggiando gli faceva compagnia. Beh, sono sempre punti di vista. Io accendo il baracchino, se non c'è nessuno faccio come stasera, spengo il baracchino, metto lo stereo e mi ascolto la musica. Problemi non ne ho, uno o l'altro. La compagnia viaggiando fa piacere. Ma tu stai dicendo se ti ho risposto io? Ti ho risposto io quando hai chiamato. Sì. Ti ho risposto io quando hai chiamato, stavi parlando tanto meglio. Sì, ma l'andata, sto dicendo, l'andata non c'era nessuno. Ecco, allora magari io buffo, sei uscito tu, o stavo facendo cosa, o non lo so, tu. Comunque non ti ho sentito, se non ti avevo risposto. Ma nel torno già ti ho sentito. Sandro, ci sei, Sandro? Ma di solito c'è Gio Maria a quell'ora, Leoncino, non c'era la stasera. Non ti fa tempo, buff. A volte non ti raccolgo neanche di stare lì a... Io perché stavo facendo cose, avevo la radio smontata, stavo mettendo a posto, magari stavo ascoltando in 40 metri, come adesso, cazzo, c'è un segnale in 40 metri. No, mi sembra anche ingiusto, è vicino Guido. Cioè, Lucina? Sando Scarpare. Se mi vedi dietro di rete, vabbè che c'è l'altra antenna attaccata lì, fatto il fondo scala, ma se ne rivali a Francesco, questo non è successo il terremoto, ma non si era mai buttato dietro il terremoto, però che persona, che se senti a questo già, come attacca le persone in 40 metri, ti butti di cuore. Cos'è, Ferrarese? E allora, la provincia di Ferrara. Ma è allucinante, due parolacci dici? Vero. Sì. Due parolacci, se mi volo anche perché poi l'attaccato minimo c'è 2-3 kW adesso, sta arrivando a 9,50, a 7,070, 9,50 sta arrivando. Rubinante. Come se ci vabbè, magari c'è anche propagazione, no? E lì c'è poca propagazione a fare, una volta c'è l'antenna. Io ho questa antenna che è una cosa micidiale, 53 metri lunga, è allucinante, ma è sempre così, si piazza lì, è tutta la sera piazzato lì a 7070, a tutta birra, mi sono provato a spostarmi a 7073, 74, lo sento di splatter, fate il conto. E deve esserci qualche amplificatore grosso anche. Si ammazza nell'invaria. pagà. Avanti, grotte, grotte. E tu cosa fai? Dov'è la patente? La patente? Non so, dovevo telefonare oggi e non ho saputo niente. Però vi devo lasciare adesso che vado un attimino a fare carica batterie, rimango in QRX, nel senso che l'aria accesa è un'orecchia alla radio e il resto a magna. Ci sentiamo dopo, dai. Sì, volevo dire, vabbè, l'esame per la patente. Per la patente? Non lo so, nel senso che non so se abbiano istituito, anzi istituito la commissione. Come sai qualcosa, Clau? Non si sa ancora niente. Guarda, io per sapere qualcosa devo telefonare a metà settimana. Cioè, se martedì, domani, mercoledì, giovedì devo chiamare. Perché sto aspettando il 08 del cambio di stazione, io ho fatto il 08 del cambio di stazione, proprio in... me l'hanno fatto notare i signori che sono venuti a controllare, che mi è scaduto. C'ho il cambio di stazione, nulla osta via Pasqua 83, perché da qua l'avevo portato lì, adesso da lì dovevo riportare qua. Non l'ho mai fatto, mi sono dimenticato e quindi me l'hanno ricordato loro, quindi ho telefonato e ho chiesto gentilmente alla signora Sicchi se me lo preparava e mi ha detto ci sentiamo a fine settimana, prima di fine settimana, così le dico se è pronto. Glielo mando direttamente con Postacele. Devo chiamare giovedì. Giovedì posso chiedere e vedere un po' se si è riunita sta cacchio di commissione. Di Roger, dai. Ci sentiamo dopo. Ciao, Anto, a dopo. Sandro, ci sei? Sì, scusatemi se mi avete rilasciato, però un attimino, siccome sto provando una cosetta qua e mi ha fatto saltare un attimino il conduttore. Ok, ciao Crote, ci sentiamo alle prossime, buona carica, dai. Ok, vedi già. No, ti ho chiamato due volte io e deve essere Sandro ci ha abbandonato. Mi sembrava bastava che avessi chiuso lui senza salutare. Invece era... stavi facendo, diciamo, danno. No, non è questione di danno, è questione che sto cercando di mettere capire perché c'è un puffo che sta facendo ribelle, quindi sto capendo un attimino dov'è diciamo l'inghippo, capito? Adesso stavo provando a misurare un po' con testa per provare un attimino la continuità, la corrente e niente, l'ho fatto ripartire per cercare un po', però mi sta di nuovo mandando i tilt, diciamo, sta reagendo diciamo su nuova vita, evidentemente c'è qualche corto, quindi adesso pian piano devo capire un po' dov'è. Va bene, ok, crote, carica batteria, riprendi qua. È un puffo, quindi hai detto un puffo? Sì, un puffo. C'è un puffo, siccome ce l'avevo bloccato, l'abbiamo portato qua per capire un attimino che cosa c'ha, capito? Cos'è sto puffo? Domanda strana, scusa, cos'è sto puffo? È un puffo. Tu hai presente un puffo? Ok. E questo puffo, diciamo, parla. Tu ci metti la monetina dentro, a te ti parla, poi la gira di cui usa fuori, ti butta fuori una carta e ti dice chi sei, chi non sei. Ah, uno di quei così elettronici, ho capito, roba, no, ma che lavoro, ha salito un puffo buffo. A te c'è un buffo. Un pupazzo, ho capito. Ha già compreso. Va bene. Sai già che per noi animatori non avere nulla osta del cambio di stazione sono 1.000 euro di multa, sai? Lo Sandro? Affero, che non vuole bene. Sandro? Ehi, dimmi Crote. Ma posso dire una cosa? Anche due, dimmi. Questo lo conosco. Paraculo, dove l'hai preso? Ma che cogliamento stai, tu? Già lo so che te l'ho dato io, dai. Mi l'hai sentito, Cracos, eccolo lì. Faccio anch'io quello lì, quei pupazzi, no? No, non ne ho parlanti io. Quindi quando vieni portamene uno che parli, capito? Perché ce li ho tutti i sordomuti. Cazzo, so che scende lì sotto, cazzo. Claudio, mi stai facendo uscire fuori dal budget, No, no, no, è un barbarovo. Hai presente i pupazzetti, quelli piccoli, colorati, di vari colori? Il barbarovo, nuova generazione, diciamo, nuovo, ma che adesso li schiacci e parlano. Grazie. sento basso io. Quella vabbè. Sì, vabbè. Certo, un po' lo vale l'altro. Vale l'altro. Del figlio. Del figlio. No, io lo prenderò a giugno. E anche io una settimana a giugno me la faccio. Sì. Certo, sono accoppiato, già non ce la faccio più. Ma ho scoppiato proprio me. Avanti ieri, ormai mi sono fatto giro. Lascio io sotto la bella, il collirio. E vogliamo trovare dal collirio. Mi è partita la pompa usatrice, mi ha preso un occhio, che ha mamma mi va di circo. Cazzo. Basta un attimo. Non scheggia, il pocolito, la vecchina, mi ha preso la faccia. Cazzo. Subito qua fresca, devi mettere, subito qua fresca corrente, cosa si chiede, per secco. Infatti ho messo subito l'acqua e mi è passato il bruciore, capito? Però me l'ha irritato un po', quindi era rosso e allora ho messo collirio un paio di giorni e basta, adesso è passato fortunatamente. Già va bene, però non ve la posso più, cioè non proprio per queste cose, sono disattento, non sto seguendo bene le cose, sono confuso, già non mi sono fermato un giorno, da gennaio a oggi, poi adesso inizia anche la Zinara, ci sono un sacco di cose da fare, non ve la posso più, ho bisogno di staccare un pochino la spina. E quindi sto aspettando che arrivi il tempo buono, il tempo bello, per farmi qualche settimana a giugno, poi più per rilassarmi totalmente. Mi avevo fatto già quando il tempo era bello la ringhiera del poggiolo, tutto il poggiolo internamente, l'ho verniciato in bianco, tutto pulito, qualche finestra me l'ho già fatta, me ne mancano due sole. Quindi mi resto a casa, mi completo qualche lavoretino a casa, ho finito di fare qua, insomma le solite cazzate, basta che non me devo alzare alle 7 del mattino e andare a lavorare, già che non ve la posso più. Come c'è la casa? Tutti i giorni, cazzo, non ce la fai più, capito? Tutti i giorni la stessa cosa, non ce la fai più, poi sto rientrando tardi, e oggi sono rientrato che la luna, perché stava sempre piovendo e abbiamo fatto i controlli col collega, Pasquale faceva una cosa, tanto lui doveva andare a rinnovarsi la patente, e quindi ho detto ci andiamo a prima, così ti accompagno, passi e ho accompagnato a luna, ero già a casa. Adesso vediamo domani com'è la situazione, però alla fine non vi avrai più, sempre bisogno di macchina, sto dimagrendo anche forte perché mi sono messo a regime, stavano cominciando i dolori, capito? E quindi anch'io ho dato un taglio un po' a tutto, non è che ne stavo approfittando, però stavo mangiando molti panini, sempre fuori orario, sempre qui, sempre là. Molta roba gasata di nuovo e allora ho dato un taglio, però fisicamente non c'è più quel ritmo, devo fermarmi per forza. Avanti bombolo. E chi era suonato? Stanno... E gli è andata mia moglie a aprire. Stai diventando grande, i uomini giovani a fare queste cose, ma... Figlio è arrivato dal lavoro già, il giovane ci voglia, ui, lascia perdere, io a volte rimango perplesso, perché io per l'età che ho sono abbastanza agile e tranquillo, però ragazzi, ho colleghi di 30 anni, quando dico io salito su Tramagliano a Negano. Perché se me lo dici a me, io prendo sacco, manco mezza parola di tutto. Ando già la galata chiesca e buco. Perché quello è il lavoro, la gente non è, la gente vuole il lavoro ma non vuole lavorare. Ma questo proprio mi ha detto Sargolini, dice ho paura, io là, allucinante. Ho detto va bene, salgo io, dai. Mantienimi la scala, salgo io, a 8 metri. No. Vabbè, e cosa ci vuoi fare? Purtroppo è così, e allora va bene, avanti già le prendi. Lo sai cos'è? Non volevo rischiare, sono l'off. Sono un bel off. È come quando lavoravo la Temi, ce n'era uno che aveva la maglia di Rafuzzi, non mi davano tutti i dieci, oh, tu non mi la vai a Tagisciù, tanto lo fai arrivare a Edo, e manco lo fai questo, mi amare un bito, come si pure a Trento, e tutti gli altri si pure a venire da voi, no, non mi davano in giro, perché se mi fai arrivare, te la vai a Edo. Già ci siamo qui, hai capito, rivendo e rivendo, te lo fai, però, cioè, io la verità non mi tiro mai indietro a niente, cerco di stare sempre con loro il più possibile, però a volte so, e dico vai, salite voi, fatelo voi, salga lì, è più pratico, quella che se me non so come più vicinetto, ma posso stare sempre appeso per i torrini, o ce ne ho uno né l'altro, manca a parlarne, sai noi abbiamo le gallerie, no? Sotterranee, quindi le condotte sotto, tipo quella di Monte Oro ai 10 metri sotto. Ma nessuno ci vuole scendere, c'è buio, ci sono i topi, può uscire qualcuno, ma chi deve uscire? Cazzo un tubo deve uscire, e così ti si accabo, cazzo chi deve uscire? Lo sai come dica che c'è lì sotto tu? Non hai idea tu? Non hai idea, e a me già sono tutto messo male, c'ho artrosi, priatrite, la cervicale, non ce la faccio, ci sono giornate che non riesco manco a muovermi, e vedete mi vado tutte le mattine, io mi devo portare una bustina a lavoro, perché a metà mattinata non riesco più a muovermi, anche lì, trentenni, ce n'è anche più piccoli, non riesce a andare sotto, a prendermi una misura, deve farmi un contattore, un misuratore di portata, niente, tutto io me devo fare. Tutto io, chi ha paura, e chi teme l'ombra sua, e chi qui, chi là, questa è questa, che la gente non ha più voglia di lavorare, come ti ho detto. Se tu hai scelto quello di lavorare, con quel compito di danno devi andare a lavorare, fare quello che devono fare. Non è che se tu hai scelto di fare quel lavoro devi accettarle anche queste cose. Non è che stanno i politici aspettando il fine mese, no. La gente non si è messa ancora in testa a caso di chi travaglia. Comunque c'è un bel di gente, guarda, che ho visto che vogliono il lavoro, vogliono tutto, ma sono da prendere a calcio il culo, guarda. Te lo dico con tutta sincerità, te lo dico, perché è così, uno quando deve lavorare deve fare tutti i compiti, non si deve rifiutare di niente. Lo so, Antonio, lo so, però torniamo sempre al discorso che devi stare calmo e tranquillo, perché secondo me che parli, ti risponde come mi ha risposto una volta, che mi ha detto a me non mattare volte, se non ricordo il Badrino, capito? Devi stare attento anche, perché magari dalla regione passi al torto, capito? La ragione passa al torto e quindi è un periodo che manco per le palle me ne frego. Io quando le cose bisogna farle le faccio, me le faccio, non sto lì a chiedere niente a nessuno. Quando poi, secondo quello che c'è da fare, che io non sono presente, che poi devo relazionare quello che non è stato fatto, lo scrivo, che si arrangia una cosa, già me la frutti. Medaglia non me danno più nessuno, tu, capito? Medaglia non ce n'è più. Come mi hanno dato, mi dovete aggiungere l'altro giorno, altre due impianti. cioè 5 lire di differenza in questo appare, capito? 7 impianti ciò, più 3 sollevamenti estradali, voi li hanno seguiti, soprattutto in giornate come oggi, e Gianni già lo conosce bene il mio lavoro, soprattutto in giornate come questi giorni, 7 impianti sono tanti, perché sono 300 km fatti tutti i giorni, girati, fatti da... Io primo impianto scendo a Nulvi, da Nulvi faccio Sedini, faccio Bulzi, faccio l'aereo, faccio Martisi, torno indietro a scorrimento veloce, sempre per Santa Maria Coina, su Valle d'Oria, poi esco dall'altra parte, vado a Uri a accompagnare il mio collega, capite, solo il tracco, per tasso vero, capite, senza neanche una lira. O così, o se no, arrivederci e buon viaggio, c'è un altro che lo fa il tuo lavoro, capito? Ma, però ci vuole anche la collaborazione, ci vuole di tutti. Ma, vabbè, bisogna lavorare perché bisogna lavorare, però ci vuole anche collaborazione. Non è che io devo lavorare e da poi dico, cazzo, non può far nulla, ma la vedi. Però non dico che non... Bisogna lavorare perché giustamente da niente non cresce niente, però ci vuole anche collaborazione, ci vuole. Cazzo, non è che devo andare io a farmi tutto, è peccato se si sta dismette. Cioè, tutti che non ma sta scherzando, dai. No, non vanno bene queste cose, e soprattutto cioè, qualche cosa in più ci vorrebbe anche, perché insomma, uno che segue tante cose, cioè, la vita deve essere anche un po' riconoscente. Vabbè, non c'è quello, però almeno una cosa, cazzo, almeno un aiuto in più lo pretendo. Cazzo, uno non è che si può fare tutto da solo, no? Solo che chissà come cavolo ha ragione a questi qua. Ha ragione. Tu già c'è qualcuno che ti aiuta, c'è qualcuno che viene con te a darti una mano, a caricare, scaricare, preparare il roll, c'è qualcuno tu? No, ragazzi. Tutto solo. Bene, io vedo quando vengono a scaricare da noi che c'è gente, per dire, arriva del materiale con l'altro giorno, ma tubi piccoli, mezzi tubi, saracinesche, insomma, materiale, però sono sempre in due, uno in braga, uno guida la gru, oppure l'altro fa una cosa, l'altro fa un'altra, no, noi siamo sempre da giù, sempre da giù. Io e i giorni, più giorni che sono da solo, che sono in compagnia, capito? Perché per lì arrivo a Nulvi e lasciami qua a me che ce l'ho a fare, tu vai a ti fai giro gli impianti e poi torni a prendermi. A tornare a prendermi se ne parla a fine mattinata, capite? Infatti molte mi chiedono, ma studiato. Cioè cosa ci vuole andare a fare i controlli e tornare a prendermi? Ma lì c'era un problema, lì c'era un altro. Tanto solo quando andano in due c'era il problema, quando andano io i problemi non ve ne. Perché? Perché se la prendono con calma, si fermano al bar, se ne sbattono altamente le palle, capito? Perché non hanno niente da perdere. E non le sembra vero che tu lo stai mollando da solo. Claudio. Oh. Saluta Sì, meglio il sonno. Perciò vi saluto, che sta prendendo la biocca, io lavoro con me oggi. Ci sentiamo ragazzi, buonanotte a tutti, anche gli ascoltoni, dai, ci sentiamo. Sto un po' all'ascolto qui, ma ne vado tutto a letto. Ciao Gio, io ti chiedo mentre ti passai. Sicuro ancora sto sbagliando, anche io sono stanco, stanco. Ancora mi fanno male gli occhi. Infatti io ho spento la luce con la neon e ho acceso i faretti che sono più bianchi, riposati, insomma mi lacrimano gli occhi. Dai, ci aggiorniamo domani. Buonanotte. Avanti a Antonio. Perché di casini ha fatto abbastanza e quindi niente, però veramente di fare, di detta pace e soprattutto collabora moltissimo, eccetera eccetera. Quelle sono le persone che a me piacciono in coppia, perché c'è fiducia reciproca e ci si dà la mano uno con l'altro. Quando uno è uno sciacquino e uno mi fa di massaggi, la beve in divirto, no, per me non è un lavoratore. Le cose si fanno fuori dal lavoro, non durante l'ora del lavoro. Non sai quanto ce ne sono colleghi che sono a fare sempre guardi o che mano. Perché io quando faccio li vedo lì, vedi la moto, per me chiedi, o la macchina, per me chiedi. Cioè, mi vengono i nervi veramente. Perché mi dà fastidio. Perché io lo bevo, io se mi metto a bere bevo, perché già lo sai che anche imbriachiera me la prendo, però io quando lavoro acqua, Coca-Cola, dici, mi piace molto il bitter, boh, non bevo altro io, perché io quando lavoro sono molto molto preciso, anche perché non devo usare una bombola spanda, e poi con quel lavoro lì ti puoi troncare con la mano di un gusto, bisogna stare molto attenti facendo le scale. Così che io odio queste cose, odio perché sono anche una persona molto precisa. Io quando bevo un bicchiere di birra, una pulata, posso bere anche una bottiglia. La domenica, fine settimana, sabato sera lo posso fare, però non agli orari di lavoro. Perché prima di tutto io non so che cosa fa, perché ci ho provato una volta, mamma mia, perché non sono abituata a bere. Io già bevo, cioè per esempio a Capodanno, a Natale, già lo sai che già me l'ho preso di Piaghera, però durante tutto l'anno non ne abuso, perché fa veramente male, guarda. Cioè tutta casa la dico la prima settimana, prima di tutto non ti viene voglia di fare niente, perché si sa che ti negava la gana. Che non ragioni, puoi fare le frontate. poi anche, secondo anche perché cioè, può passare un controllo, può passare, cioè, ma sono tutti i casini che passa, cioè, se si trovano, cioè, si parte un cazzo di nuove volte. Non riesco a capire certa gente, cioè, come non ho fatto a mandarla via per queste cose qua, cioè, come se la tiene sta fatta. Perché c'è troppa gente che gli piace troppo la minuzia, non lavorano e ne prendono magari il lavoro a quelli che veramente hanno voglia di lavorare. Ecco com'è la situazione. Sì, ma poi ti ripeto, puoi farti male tu e far fare male anche agli altri, quindi ci vuole impegno, ma da tutte le parti, non io parlo solo per me. Ci vuole impegno per tutti, ci vuole impegno per il tuo lavoro, per quello mio, per quello degli altri. Ci vuole impegno, l'impegno è dare quel poco che serve per far sì che l'azienda che ti va da mangiare sia contenta. Dal momento in cui tu all'azienda la metti in difficoltà, le crei problemi, è chiaro che tutto il resto non va bene, capito? Non va assolutamente bene. Tutto qui. Va bene, Anto, dai, io ti abbandono perché mi gioco dormendo buio, io sono 11:20 e oggi ho fatto un po' di radio. Saluto Luca che è Querix, Antonio Grobbe, Sandro Tigre, Fabrizio è già andato al lavoro, chiunque fosse in ascolto sul canale 10. La più cordiale buonanotte a tutti, ci aggiorniamo domani. Attento. Ciao Franca, capo d'Ecla. Ciao. Ci vediamo domani alle prossime, grazie del museo. Capa. L'ultima cosa, quindi una cosettina veloce. Quindi te l'hanno concesso una stata. Sì. Tutto a posto. Tutto a posto. Sto già iniziando a muovere qualcosa, ma piano piano perché? Avevo una bella idea. E quindi sto facendo le cose piano piano. Adesso la prima cosa che stiamo facendo è liberare tutto quello che c'è, perché c'è la roba anche degli altri, quindi piano piano se la stanno portando via, e quindi appena è tutto libero, hanno già tracciato il tramezzo, hanno già iniziato a vedere come vanno fatti i lavori, e quindi si inizia, tanto tempo brutto, e quindi momentaneamente sto facendo portare via tutta la roba che c'è. Parti pacchettini, sono quelli dell'economia, dai, e poi si metterà a posto tutto. Cappa, dai. Ok, dai, no, non c'è un problema. Poche parole ti hai preso tutto tu? Sì. E un altro appartamento quello. È 75 metri quadri, addirittura sopportabile, capito? Perché la punta più bassa è 1,70 mi sembra, la punta più bassa, la punta più alta è più di 3 metri. Ma va. Ok. E comunque adesso qualche domenica se ti serve una mano a farti la roba tu e cosa, basta chiamarmi. Se sono libero vengo volentieri. Non c'è problema, tu ti ringrazi. E intanto ancora devono liberare, stanno liberando piano piano. Poi io ho già iniziato qua a fare degli spostamenti, le cose, ho già tolto la roba che non serve, che devo staccare. E poi iniziamo a fare tutti i lavoretti che ci sono da fare. Va bene. Adesso l'importante è che arrivi il tempo bello, perché col tempo brutto non si può fare niente, capito? Non si può fare niente perché vanno per tagliare, perché si fa tutta gasbetta, non capito, per essere leggero, tra mesi. E per tagliare devono stare fuori nel, voce. A tempo brutto non si può fare niente. Quindi con calma, tranquillità, l'importante è che me l'abbia giudicata, poi per il resto piano piano si vedrà. Dai, Anto, ti saluto e vado un po' a parlare con mia figlia, che è rientrata già da un po' al lavoro, ancora sono sempre chiuso qua. Ci sentiamo domani, buonanotte a tutti, ciao anche a chi mi ha salutato, un cordiale saluto, buonanotte e buona giornata a tutti da parte di Claudio Spaviero. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, buonanotte, dai, vai, se no ti trattengo troppo, poi non va bene, dai. Ciao, buonanotte. Ciao Antonio, ciao a chi mi ha salutato, buonanotte.